Un giorno Clara fece mettere un chiavistello alla porta della sua stanza e non mi volle più nel suo letto, se non quelle volte in cui io forzavo talmente la situazione che un rifiuto avrebbe significato la rottura definitiva. Dapprima pensai che avesse uno di quegli strani malesseri che talvolta hanno le donne, oppure la menopausa, ma quando il fatto si protrasse per varie settimane, decisi di parlargliene. Mi spiegò con calma che la nostra situazione matrimoniale si era deteriorata, sicché aveva perso la buona disposizione per i ruzzi carnali. Dedusse con naturalezza che se non avevamo niente da dirci, neppure potevamo spartire il letto, e sembrò stupita del fatto che io passavo tutto il giorno ad arrabbiarmi con lei e la notte a desiderare le sue carezze. Cercai di farle capire che in questo senso gli uomini sono diversi dalle donne e che l'adoravo nonostante le mie ubbie, ma fu inutile. In quel tempo ero più sano e più forte di lei, a prescindere dal mio incidente e dal fatto che Clara era molto più giovane. Con l'età ero dimagrito, non avevo un briciolo di grasso in corpo e conservavo la stessa resistenza e lo stesso vigore della mia giovinezza. Potevo trascorrere tutto il giorno a cavallo, dormire disteso in qualunque posto, mangiare qualsiasi cosa senza risentirne alla vescica, al fegato e agli altri organi interni di cui la gente parla continuamente. Mi facevano male le ossa, questo sì. Nelle sere fredde o nelle notti umide il dolore alle ossa schiacciate durante il terremoto era così intenso che mordevo il guanciale per non far udire i miei lamenti. Quando proprio non resistevo oltre, buttavo giù un sorso di acquavite e due aspirine effervescenti, ma non è che mi passasse. Il fatto strano è che la mia sensualità si era fatta più selettiva con l'età, ma era accesa quasi come nella mia gioventù. Mi piaceva guardare le donne, mi piace ancora. È un piacere estetico, quasi spirituale, ma solo Clara risvegliava in me un desiderio concreto e immediato, perché nella nostra lunga vita in comune avevamo imparato a conoscerci e ciascuno di noi conosceva in punta di dita la geografia precisa dell'altro. Lei sapeva dove erano le mie zone più sensibili, poteva dirmi esattamente quello che avevo bisogno di sentire, a un'età in cui la maggior parte degli uomini sono stufi della moglie e hanno bisogno dello stimolo delle altre per trovare la scintilla del desiderio. Io ero convinto che solo con Clara potevo fare l'amore come ai tempi della luna di miele, instancabilmente. Non ero tentato di cercare altre donne. Ricordo che cominciavo ad assediarla all'imbrunire. Di sera si sedeva a scrivere, io facevo finta di assaporare la pipa, ma in realtà la spiavo con la coda dell'occhio. Non appena calcolavo che stava per ritirarsi, perché si metteva a nettare la penna e a chiudere i quaderni, la precedevo. Andavo zoppicando in bagno, mi azzimavo, mi mettevo una vestaglia felpata da vescovo che avevo comprato per sedurla, ma della cui esistenza lei non sembrò mai essersi accorta. Accostavo l'orecchio alla porta e l'aspettavo. Quando sentivo che avanzava nel corridoio, le balzavo addosso. Provai di tutto, dal colmarla di lusinghe e regali fino a minacciarla di abbattere la porta e di darle un fracco di bastonate, ma nessuna di queste alternative colmava l'abisso che ci separava. Immagino che fosse inutile che io cercassi di farle dimenticare con le mie premure amorose della notte il cattivo umore con cui l'opprimevo di giorno. Clara mi evitava con quell'aria distratta che finii per detestare. Non riesco a capire cos'era che mi attraesse tanto in lei. Era una donna matura, senza alcuna civetteria, che strascicava leggermente i piedi e che aveva perso l'allegria ingiustificata che la rendeva così attraente in gioventù. Clara non era seduttrice né tenera con me. Sono sicuro che non mi amava. Non c'era motivo di desiderarla in quel modo esagerato e brutale che sconfinava con la disperazione e col ridicolo, ma non potevo evitarlo. I suoi minimi gesti, il suo tenue odore di biancheria pulita e di sapone, la luce dei suoi occhi, la grazia della sua nuca sottile coronata dai riccioli ribelli, tutto in lei mi piaceva. La sua fragilità mi suscitava una tenerezza insopportabile, volevo proteggerla, abbracciarla, farla ridere come ai vecchi tempi, dormire ancora con lei al mio fianco, con la sua testa sulla mia spalla, le gambe raccolte sotto le mie, così piccola e tiepida, la sua mano sul mio petto, vulnerabile e bellissima. Talvolta mi proponevo di punirla con una finta indifferenza, ma in capo a qualche giorno mi davo per vinto perché sembrava molto più tranquilla e felice quando l'ignoravo. Trapanai un buco nella parete del bagno per vederla nuda, ma ciò mi metteva in un tale stato di turbamento che preferii richiuderlo con un po' di calce. Per ferirla ostentai di andare al Lampioncino Rosso, ma il suo unico commento fu che era meglio che violentare le contadine. Cosa che mi sorprese perché non avevo immaginato che lo sapesse. Pur di provocare una sua frase, ripresi a tentare le violenze, non fosse altro che per darle fastidio. Ebbi così la prova che il tempo e il terremoto avevano minato la mia virilità e che ormai non avevo più la forza di cingere la vita di una robusta ragazza e di sarla in groppa al mio cavallo, e ancora meno di toglierle le vesti a strappi e penetrarla contro la sua volontà. Ero nell'età in cui si ha bisogno di aiuto e di tenerezza per fare l'amore, ero diventato vecchio. Lui fu l'unico ad accorgersi che stava rattrappendosi. Lo notò dagli abiti. Non era semplicemente che gli stavano larghi, bensì che gli andavano lunghe le maniche e le gambe dei pantaloni. Chiese a Blanca di risistemarglieli alla macchina per cucire con la scusa che stava dimagrendo, ma si chiedeva con inquietudine se Pedro Garcia, il vecchio, non gli avesse aggiustato le ossa al rovescio e per questo stava rimpicciolendosi. Non lo disse a nessuno, così come non aveva mai parlato dei suoi dolori, per una questione di orgoglio. In quei giorni si preparavano le elezioni presidenziali e durante una cena dei conservatori al villaggio Esteban Trueba conobbe il conte Jean de Satigny. Portava scarpe di capretto e giacche di lino grezzo, non sudava come gli altri mortali e profumava di colonia inglese. Era sempre abbronzato per l'abitudine di spingere con una mazza una pallina attraverso un archetto nella piena luce del mezzogiorno e parlava strascicando le ultime sillabe delle parole e mangiandosi le R. Era l'unico uomo tra quanti Esteban conosceva che si mettesse smalto lucido sulle unghie e colirio azzurro negli occhi. Aveva biglietti da visita con lo stemma della sua famiglia e osservava tutte le buone regole conosciute e altre inventate da lui, come mangiare i carciofi con pinzette, il che provocava stupore generale. Gli uomini ridevano alle sue spalle, ma ben presto si vide che cercavano di imitare la sua eleganza, le sue scarpe di capretto, la sua indifferenza e la sua aria civile. Il titolo di conte lo collocava a un livello diverso da quello degli altri emigranti che erano arrivati dall'Europa centrale fuggendo le calamità del secolo scorso, dalla Spagna scappando dalla guerra, dal Medio Oriente con quegli affari di turchi e armeni, dell'Asia per vendere i loro cibi tipici e le loro cianfrusaglie. Il conte de Satigny non aveva bisogno di guadagnarsi la vita, come fece sapere a tutti. L'affare dei Cincillà era solo un passatempo per lui. Esteban Trueba aveva visto i Cincillà aggirarsi nella sua proprietà. Dava loro la caccia a fucilate perché gli divoravano i seminati, ma non aveva immaginato che quei roditori insignificanti potessero trasformarsi in pellicce per signora. Jean de Satigny cercava un socio che mettesse il capitale, il lavoro, gli allevamenti e corresse tutti i rischi per dividere il guadagno al 50%. Esteban Trueba non era un avventuroso in alcun aspetto della vita, ma il conte francese aveva la grazia alata e l'ingegno che potevano accattivarselo, per cui passò molte notti sveglio a studiare la crescita proporzionale dei Cincillà e a fare conti. Intanto, Monsieur de Satigny passava molto tempo alle Tre Marie come ospite d'onore, giocava con la sua pallina in pieno sole, beveva quantità esorbitanti di succo di melone senza zucchero e girava delicatamente intorno alle ceramiche di Blanca. Arrivò al punto da proporre alla ragazza di esportarle in altri luoghi dove c'era un mercato sicuro per l'artigianato indigeno. Blanca cercò di chiarire l'equivoco spiegandogli che lei non aveva niente di indiano e neppure la sua opera, ma la barriera del linguaggio impedì che lui comprendesse il suo punto di vista. Il conte fu un'acquisizione sociale per la famiglia Trueba, perché dal momento in cui si installò nella loro proprietà, piovvero inviti alle tenute vicine, alle riunioni con le autorità politiche del villaggio e a tutti gli eventi culturali e sociali della regione. Tutti volevano star vicini al francese nella speranza che qualcosa della sua distinzione li contagiasse. Le ragazzine sospiravano al vederlo e le madri lo ambivano come genero, contendendosi l'onore di invitarlo. I signori invidiavano la fortuna di Esteban Trueba, che era stato scelto per l'affare dei Cincillà. L'unica a non rimanere abbagliata dagli incantesimi del francese e a non meravigliarsi per il suo modo di sbucciare un'arancia con le posate, senza toccarla con le dita, lasciando la buccia a forma di fiore, o per la sua abilità di citare i poeti e i filosofi francesi nella loro lingua natale, fu Clara, che ogni qual volta lo vedeva doveva chiedergli il suo nome e si stupiva quando lo incontrava in vestaglia di seta mentre andava nel bagno di casa sua. Blanca invece si divertiva con lui ed era felice dell'occasione di indossare i suoi abiti migliori, di pettinarsi con cura e di preparare la tavola con le porcellane inglesi e i candelabri d'argento. Perlomeno ci tira fuori dalla barbarie, diceva. Esteban Trueba era meno impressionato dalle smancerie del nobile che dai Cincillà. Pensava come diavolo non gli fosse mai passata per la testa l'idea di conciarne la pelliccia. Invece di perdere tanti anni ad allevare quelle maledette galline che morivano alla prima diarrea da nulla e quelle mucche che per ogni litro di latte che si mungeva loro consumavano un ettaro di foraggio e una scatola di vitamine, e inoltre riempivano tutto di mosche e di merda. Clara e Pedro II Garcia invece non condividevano il suo entusiasmo nei confronti dei roditori, lei per ragioni umanitarie, poiché le sembrava atroce allevarli per strappar loro la pelle, e lui perché non aveva mai sentito parlare di allevamenti di topi. Una notte il conte uscì a fumare uno dei suoi sigari orientali, fatti venire apposta per lui dal Libano, dove diavolo si troverà mai, come diceva Trueba, e a respirare il profumo dei fiori che saliva a grandi folate dal giardino e inondava le stanze. Passeggiò un po' sulla terrazza e misurò con lo sguardo l'estensione del parco che circondava la casa padronale. Sospirò, commosso, da quella natura prodiga che sapeva riunire nel più dimenticato paese della terra tutti i climi di sua invenzione, la cordigliera e il mare, le vallate, le cime più alte, fiumi dall'acqua cristallina e una fauna benevola che consentiva di passeggiare in tutta tranquillità, nella certezza che non sarebbero apparsi serpenti velenosi o fiere affamate. E per colmo di perfezione, non c'erano neppure negri rancorosi o indiani selvaggi. Era stufo di girare per paesi esotici, inseguendo commerci di pinne di pesce cane come afrodisiaci, ginseng per ogni malanno, sculture intagliate dagli eschimesi, piranha imbalsamati dell'Amazzonia e Cincillà per farne pellicce per signora. Aveva 38 anni, o almeno questi confessava, e sentiva che aveva infine trovato il paradiso in terra, dove poteva iniziare imprese tranquille con soci ingenui. Si sedette su un tronco a fumare nell'oscurità. D'improvviso vide un'ombra agitarsi ed ebbe la fugace idea che poteva essere un ladro, ma subito la scacciò perché i banditi in quelle terre erano incongrui al pari delle bestie cattive. Si avvicinò con prudenza e allora scorse Blanca che metteva le gambe fuori della finestra e scivolava come un gatto lungo il muro, andando a cadere tra le ortensie senza il minimo rumore. Era vestita da uomo perché i cani ormai la conoscevano e non aveva bisogno di girare nuda. Jean de Satigny la vide allontanarsi cercando l'ombra della veranda della casa e degli alberi e pensò di seguirla, ma ebbe paura dei mastini e pensò che non era necessario per sapere dove andava una ragazza che salta da una finestra nella notte. Si sentì preoccupato perché quanto aveva appena visto metteva in pericolo i suoi piani. Il giorno dopo il conte chiese in matrimonio Blanca Trueba. Esteban, che non aveva avuto tempo di conoscere bene sua figlia, aveva confuso la sua placida amabilità e il suo entusiasmo nel disporre i candelabri d'argento sulla tavola con l'amore. Si sentì molto soddisfatto che sua figlia, così annoiata e di cattiva salute, avesse acchiappato il giovanotto più richiesto della regione. Ma che cosa avrà visto in lei? Si chiese stupito. Disse al pretendente che doveva parlarne con Blanca, ma che era sicuro che non ci sarebbe stato alcun ostacolo e che da parte sua gli dava con anticipo il benvenuto nella famiglia. Mandò a chiamare sua figlia, che in quel momento stava insegnando geografia nella scuola, e si chiuse con lei nel suo ufficio. 5 minuti dopo la porta si aprì violentemente e il conte vide uscire la giovane con le guance arrossate. Passandogli accanto, gli lanciò un'occhiata di odio e girò la faccia dall'altra parte. Un altro meno tenace avrebbe fatto le valigie e se ne sarebbe andato all'unico albergo del villaggio, ma il conte disse a Esteban che era sicuro di conquistare l'amore della giovane, purché gliene avessero dato il tempo. Esteban Trueba gli offrì di rimanere come ospite alle Tre Marie finché non l'avesse ritenuto necessario. Blanca non disse nulla, ma da quel giorno smise di mangiare a tavola con loro e non perse occasione per far sapere al francese che era indesiderabile. Ripose i suoi abiti eleganti e i candelabri d'argento e lo evitò con cura. Annunciò a suo padre che se le avesse ancora accennato la faccenda del matrimonio sarebbe tornata alla capitale col primo treno che fosse passato dalla stazione e che sarebbe entrata come novizia nel suo collegio. Cambierà idea, le ruggì Esteban Trueba. Ne dubito, rispose lei. Quell'anno l'arrivo dei gemelli alle Tre Marie fu un grande sollievo. Portarono una ventata di freschezza e di chiasso nel clima opprimente della casa. Nessuno dei due gemelli seppe apprezzare il fascino del nobile francese, sebbene questi avesse fatto discreti sforzi per conquistarsi la simpatia dei giovani. Jaime e Nicolas prendevano in giro i suoi modi di fare, le sue scarpe da checca e il suo cognome straniero, ma Jean de Satigny non si scompose mai. Il suo buon umore finì per disarmarli e convissero per il resto dell'estate amichevolmente, arrivando persino ad allearsi nel tentativo di sottrarre Blanca all'ostinazione in cui era sprofondata. Hai già 24 anni, sorella, vuoi rimanere zitella? Dicevano. E cercavano di spingerla a farsi tagliare i capelli e a copiare i vestiti che furoreggiavano sulle riviste, ma lei non nutriva alcun interesse per quella moda esotica, che non aveva la minima probabilità di sopravvivere nel polverone della campagna. I gemelli erano così diversi tra loro che non sembravano neppure fratelli. Jaime era alto, robusto, timido e studioso, costretto dall'educazione del collegio. Riuscì a sviluppare con lo sport una muscolatura da atleta, ma in realtà era dell'idea che quella fosse un'attività faticosa e inutile. Non poteva capire l'entusiasmo di Jean de Satigny che passava la mattina a inseguire una palla con una mazza per spingerla in un buco, quando era così facile mettercela con la mano. Aveva strane manie che erano cominciate a manifestarsi in quell'epoca e che si andarono accentuando durante la sua vita. Non gli piaceva che gli respirassero da vicino, che gli dessero la mano, che gli rivolgessero domande personali, che gli chiedessero libri in prestito e che gli scrivessero lettere. Questo rendeva difficili i suoi rapporti con la gente, ma non riuscì a isolarlo, perché dopo 5 minuti che lo si conosceva, balzava agli occhi, che nonostante il suo carattere eccitabile era generoso, candido e aveva una grande capacità di tenerezza che inutilmente cercava di nascondere perché se ne vergognava. Si preoccupava degli altri molto più di quanto volesse ammettere. Era facile commuoverlo. Alle Tre Marie i mezzadri lo chiamavano il padroncino e correvano da lui ogni volta che avevano bisogno di qualcosa. Jaime li ascoltava senza fare commenti, rispondeva a monosillabi e finiva voltando loro le spalle, ma non aveva pace finché non risolveva il problema. Era scontroso e sua madre diceva che nemmeno quando era bambino si lasciava accarezzare. Fin da piccolo aveva gesti stravaganti, era capace di togliersi la roba che aveva addosso per darla a un altro, cosa che aveva fatto in varie circostanze. L'affetto e le emozioni gli sembravano segno di inferiorità e solo con gli animali superava la barriera del suo esagerato pudore. Si rotolava in terra con loro, li accarezzava, dava loro da mangiare e dormiva abbracciato ai cani. Faceva lo stesso con i bambini molto piccoli, purché nessuno stesse osservandolo, in quanto davanti alla gente preferiva il ruolo dell'uomo forte e solitario. L'educazione britannica di 12 anni di collegio non poté sviluppare in lui lo spleen, che era considerato il miglior attributo di un gentiluomo. Era un incorreggibile sentimentale, per questo si interessava alla politica e aveva deciso che non sarebbe divenuto avvocato, come suo padre desiderava, ma medico, per aiutare chi ne aveva bisogno, come gli aveva suggerito sua madre, che lo conosceva meglio. Jaime aveva giocato con Pedro Terzo Garcia per tutta l'infanzia, ma fu in quell'anno che imparò ad ammirarlo. Blanca aveva dovuto sacrificare un paio di incontri al fiume perché i due giovani si incontrassero. Parlavano di giustizia, di uguaglianza, del movimento contadino, del socialismo, mentre Blanca li ascoltava con impazienza, desiderando che finissero in fretta per rimanere sola col suo amante. Quell'amicizia unì i due ragazzi sino alla morte, senza che Esteban lo sospettasse. Nicolas era bello come una fanciulla. Aveva ereditato la delicatezza e la trasparenza di pelle di sua madre. Era piccolo, magro, astuto e svelto come una volpe. D'intelligenza brillante, senza fare alcuno sforzo, superava suo fratello in tutto quello che intraprendevano insieme. Aveva inventato un gioco per tormentarlo. Lo contraddiceva su qualunque argomento e trovava le frasi con tanta sicurezza e abilità che finiva per convincere Jaime che si sbagliava, obbligandolo ad ammettere il suo errore. «Sei sicuro che ho ragione io?» diceva infine Nicolás a suo fratello. «Sì, hai ragione tu», grugniva Jaime, la cui rettitudine gli impediva di discutere in malafede. «Ah, sono contento», esclamava Nicolás. «Ora io ti dimostro che chi ha ragione sei tu e quello che sbaglia sono io. Ti dirò gli argomenti che avresti dovuto usare se fossi stato intelligente». Jaime perdeva la pazienza e gliele suonava, ma subito se ne pentiva perché era molto più forte di suo fratello e la sua stessa forza lo faceva sentire colpevole. In collegio Nicolas usava la sua intelligenza per dare fastidio agli altri e quando si vedeva costretto ad affrontare una situazione di violenza, chiamava suo fratello perché lo difendesse mentre lui lo incitava da dietro. Jaime si abituò a esporsi per Nicolás, al punto da sembrargli normale essere punito al suo posto, fare i suoi compiti e nascondere le sue bugie. Il principale interesse di Nicolás in quel periodo della sua gioventù, a parte le donne, consisteva nello sviluppare l'abilità di Clara a indovinare il futuro. Comprava libri di società segrete, di oroscopi e di tutto quello che avesse caratteristiche soprannaturali. Quell'anno aveva la fissazione di smascherare miracoli, comprò Le vite dei santi in edizione popolare e trascorse l'estate cercando spiegazioni pedestri alle più fantastiche prodezze di ordine spirituale. Sua madre lo scherniva. «Ah, se non riesci a capire come funziona il telefono, figlio», diceva Clara, «come vuoi comprendere i miracoli?» L'interesse di Nicolás per i fatti soprannaturali aveva cominciato a manifestarsi un paio di anni prima. Nei fine settimana in cui poteva uscire dal collegio, andava a trovare le tre sorelle Mora al loro vecchio mulino per imparare scienze occulte. Ma aveva subito capito di non avere alcuna disposizione naturale per la chiaroveggenza e per la telecinesi, sicché dovette rassegnarsi alla meccanica delle carte astrologiche, dei tarocchi e dei bastoncini cinesi, poiché una cosa ne tira un'altra. In casa della Mora, delle Mora aveva conosciuto una bella giovane di nome Amanda, un po' più anziana di lui, che l'aveva iniziato alla meditazione yoga e all'agopuntura, discipline con cui Nicolas riuscì a curare i reumatismi e altri piccoli dolori, che era più di quanto avrebbe ottenuto suo fratello con la medicina tradizionale dopo 7 anni di studio. Ma tutto questo accadde molto dopo. Quell'estate aveva 21 anni e si annoiava in campagna. Suo fratello lo vigilava da presso perché non desse fastidio alle ragazze, dato che si era autodesignato difensore della virtù delle giovinette delle Tre Marie. E tuttavia, Nicolas si diede da fare per sedurre quasi tutte le adolescenti della zona, con arti di galanteria, quali mai si erano viste da quelle parti. Il resto del tempo lo passava indagando sui miracoli, cercando di imparare i trucchi di sua madre per muovere la saliera con la forza della mente e scrivendo versi appassionati ad Amanda che glieli rimandava per posta, corretti e migliorati, senza che questo scoraggiasse minimamente il giovane.